Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Benvenuti carissimi ascoltatori alla quinta puntata de Il bene di tutti, parliamone, una rubrica a cura dell'ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova. Chi vi parla è Andrea Canton. Con questa piccola rubrica cercheremo, cari ascoltatori, di riflettere assieme senza pregiudizi su lavoro, economia, politica e società, senza fretta, nei minuti che abbiamo a disposizione. A farci da cicerone in questo cammino sarà la dottrina sociale della Chiesa, ovvero l'insegnamento del Magistero su temi che ad un primo sguardo ci sembrano molto distanti dagli altari e dalle sacrestie, ma che nel corso dell'ultimo secolo sono divenuti fondamentali nel rapporto tra la Chiesa e il mondo. Sono anni di crisi, i giornali ce lo ricordano giorno dopo giorno con toni sempre più accesi, ma a fronte di tasse che arriveranno o paura per un futuro che si prospetta sempre più incerto, c'è una categoria che soffre già la crisi da parecchi anni, ancor prima di poter fare il proprio ingresso nel mondo del lavoro. Stiamo parlando dei giovani. Le cifre riportate dall'Istat ad inizio gennaio e anche ad inizio di questo mese sono sconfortanti. Sono più di 30 i giovani su 100 dai 15 ai 24 anni che sono senza lavoro e aumentano esponenzialmente anche i NEET, un termine inglese che significa Not in Education, Employment or Training, ovvero i giovani privi di prospettive che non studiano, non lavorano e non si formano in alcun modo. Per non parlare poi dei precari, sono giovani senza prospettive in attesa del rinnovo di un contratto, che forse non arriverà mai, incapaci di accendere un mutuo o di farsi una famiglia. Ma davanti ad uno scenario così sconfortante, che ci dice l'insegnamento della Chiesa? Ascoltiamo un brano dell'ultima enciclica sociale, La Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Ne parleremo poi con Maurizio Padovan, giovane direttore del Centro Toniolo della Diocesi di Padova e anche direttore della Scuola Sociopolitica del Patriarcato di Venezia. Ascoltiamo il brano. Dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Nella considerazione dei problemi dello sviluppo non si può non mettere in evidenza il nesso diretto tra povertà e disoccupazione. I poveri, in molti casi, sono il risultato della violazione della dignità del lavoro umano, sia perché ne vengono limitate le possibilità, disoccupazione e sottoccupazione, sia perché vengono svalutati i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il diritto al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavoratore e della sua famiglia. Perciò, già il 1 maggio 2000, il mio predecessore, Giovanni Paolo II, di venerata memoria, in occasione del Giubileo dei lavoratori, lanciò un appello per una coalizione mondiale in favore del lavoro decente, incoraggiando la strategia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. In tal modo conferiva un forte riscontro morale a questo obiettivo, quale aspirazione delle famiglie in tutti i paesi del mondo. Che cosa significa la parola decente applicata al lavoro? Significa un lavoro che in ogni società sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna, un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro comunità, un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione, un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare. Un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce. Un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale. Un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa. È con noi, carissimi ascoltatori, Maurizio Padovan, direttore del Centro Toniolo. Grazie per essere con noi, Maurizio. Grazie a voi. Maurizio, che ci dice questo pezzo che abbiamo appena letto? Ci dice, come nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa e come il compendio ci ricorda, che il dramma della disoccupazione è un dramma che incrina dal punto di vista esistenziale l'essere umano, nel senso che non gli permette di progettare e programmare il proprio percorso di vita, quindi non gli permette di costruire e mantenere una famiglia. Ma rispetto a 30 anni fa, cos'è cambiato nel mondo dell'economia e quindi nel mondo del lavoro che ha provocato questo aumento della disoccupazione, in particolare della disoccupazione giovanile? Il pezzo si rivolge all'intera umanità. Il contesto italiano è un po' diverso. Io credo che questi 30 anni non siano stati 30 anni di riforme, rivisitazioni oculate, non siano stati 30 anni che abbiano guardato al futuro, siano stati 30 anni che hanno sostanzialmente consolidato, tutelato posizioni poco produttive, poco tese all'innovazione e di conseguenza, come spesso sentiamo in questo periodo, abbiano difeso alcuni privilegi. Ma quali sono i nodi strutturali che hanno provocato questa stasi, insomma, questo peggioramento dell'economia? Io credo essenzialmente ad un ruolo molto forte della politica. La politica ha il compito di guidare, orientare, dominare le cose e non credo invece all'inverso, che sia l'economia a dettare i tempi. Se la politica però è vacante, allora gli equilibri saltano. Credo che in questi 30 anni ci siamo occupati di molte cose e abbiamo tralasciato l'aspetto più importante, cioè quello del governo della cosa pubblica, e di conseguenza sono mancate quelle strategie che permettono alle generazioni future di investire. Grazie Maurizio, ci fermiamo un attimo per una breve pausa e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori alla quinta puntata del Bene di Tutti Parliamone e stiamo parlando di disoccupazione, in particolare di disoccupazione giovanile, con Maurizio Padovan, direttore del Centro Toniolo. Maurizio, in questi 30 anni sono successe molte cose. Oltre ai nodi strutturali di cui abbiamo parlato prima, ovvero del poco coinvolgimento della politica in questi temi, è cambiato anche qualcosa nell'etica, nella morale applicata all'economia? Ma i costumi certamente cambiano e di conseguenza cambiano anche i valori e gli orientamenti, il peso che le persone danno alle cose. La forza della globalizzazione ha smantellato alcuni riferimenti, modelli, che aiutavano il vivere civile. Questo non è necessariamente negativo se la società fosse stata in grado di rigenerare altri riferimenti, di riformularli, di ricostruirli. Questa è però anche una crisi culturale. Molti condividono questa opinione e condividono il fatto che la crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo sia il frutto in realtà di una forte crisi culturale, cioè di un'assenza di riferimento valoriale che mette nelle condizioni l'uomo di agire a prescindere e quindi di non controllare le proprie azioni e quindi di speculare notevolmente a livello finanziario senza occuparsi della produttività e della competitività di un territorio, ad esempio, che ha bisogno di scuole adeguate, che ha bisogno di posti di lavoro, che ha bisogno di un'amministrazione pubblica efficiente. Ma in particolare per i giovani, cosa è cambiato rispetto a un ragazzo di 20 anni che cominciava a lavorare nell'80 e un ragazzo di 20 anni che vuole cominciare a lavorare nel 2012? Mi è capitato di parlare con il figlio di Aldo Moro, Giovanni Moro, che oggi ha 50 anni, e mi diceva: ai miei tempi un ragazzo di belle speranze, di 20 anni, sognava di fare politica. Oggi probabilmente sogna di fare il direttore di banca. Ecco, credo che in queste parole ci sia del vero, ci sia molto. E oggi il dramma maggiore per i giovani che si approcciano, entrano nel mondo del lavoro, è che vedono poco utilizzate, poco valorizzate quelle risorse che sono state date loro dalla scuola, dall'istruzione, dall'investimento pubblico, ma anche dal buon Dio, attraverso i talenti e i carismi che il Creatore ha messo in ciascuno di noi. Quando noi non utilizziamo, non mettiamo nelle condizioni questi giovani di utilizzare questi doni di Dio, ecco, facciamo un grave peccato nei confronti di Dio stesso, ma anche nei confronti della comunità, perché lì priviamo la comunità tutta di una grande risorsa. Se dovessimo indicare con il ditino il colpevole, insomma il peccatore, quello che ha originato questa situazione, ce la facciamo a indicarlo? Guarda, io credo che ci sia anche una grande paura dietro, una grande paura di cambiamento, una grande paura di novità, una grande paura di perdere le piccole sicurezze che si sono costruite in questi anni. E quindi una classe dirigente molto vecchia, un paese gerontocratico, fatica a lasciare questi spazi. Anche perché non ha quell'entusiasmo naturale che giace nelle nuove generazioni. Io credo che la paura sia il grande colpevole, la poca visione, e forse, visto che abbiamo parlato di dottrina sociale della Chiesa, la poca fede. Ma ecco, infatti parliamo di fede, parliamo di speranza per una ricrescita, per una rinascita sui temi del lavoro, sul fatto che magari fra 5-6 anni tutti i ragazzi troveranno lavoro a 2 mesi dal termine dell'università. Bene, quali sono i piccoli passi che possiamo già cominciare a fare per vedere questo sole dopo questi anni di notte, di buio? Io credo che sia quello di, come ti dicevo, di avere coraggio, quindi di aprire le porte, le posizioni di realtà nascenti o realtà importanti a personale nuovo, e di fidarsi delle loro scelte, delle loro novità, dei loro cambi di rotta. E tuttavia poi c'è una riforma del mercato del lavoro che è d'attualità oggi, che vede quello di limare, diciamo così, quelle tutele spregiudicate che una certa classe generazionale può avere, perché, ripeto, di una certa età, e che un'altra non si può neanche immaginare. C'è una flessibilità che deve essere accompagnata tanto in entrata quanto in uscita. Il nostro Presidente del Consiglio parla di monotonia, di noia, di un lavoro, di un posto fisso per tutta la vita, e io credo che in questo ci sia qualcosa che abbia a che fare con la fede e la speranza, cioè la capacità di ogni uomo di ripensarsi ogni giorno. Grazie infinite per essere stato con noi, Maurizio, e anche gli ascoltatori credo che saranno grati per queste riflessioni che abbiamo fatto insieme. Grazie per essere stato con noi e ci risentiremo presto, credo. Grazie a voi. Grazie. Ricordiamo in breve alcuni dei prossimi appuntamenti a cura della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Dopodomani, giovedì 9 febbraio, dalle ore 18:15 nel Monastero di Santa Giustina si terrà l'incontro Spiritualità per un'etica civile con il teologo Don Carlo Morari. Segnatevi già in agenda l'appuntamento di sabato 25 febbraio dalle 15:30 alle 18 presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario. Si terrà un incontro dal titolo Per una nuova economia civile tra finanza, politica e società con Stefano Zamagni e Lorenzo Biagi. L'appuntamento con noi è per martedì prossimo, sempre alle 18:25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potrete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, e per contattarci potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da parte mia, Andrea Canton, un ringraziamento e un saluto e un arrivederci alla settimana prossima. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.